Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Gianna! Susanna. Incontrai una donna tempo fa. I suoi capelli erano neri, di un nero intenso. Sei tu un insegnante dell'anima? Dolcemente rispose no. Incontrai una ragazza oltre il mare. I suoi capelli erano color oro. Sei tu un insegnante dell'anima? Sì, ma non per te. Incontrai un uomo che aveva perso la ragione in qualche posto che io dovevo trovare. Seguimi, disse l'uomo saggio, ma egli mi camminò accanto. Entrai in un ospedale nel quale nessuno era malato e nessuno stava bene. Quando le infermiere la notte andavano via, non potevo più camminare. Arrivò la mattina ed arrivò il mezzogiorno. L'ora della cena, una lama di bisturi si posò accanto al mio cucchiaio d'argento. Alcune ragazze delirano per errore dentro al disordine che i bisturi fanno. Sei tu l'insegnante della mia anima? Noi insegniamo ai vecchi cuori a rompersi. Una mattina mi svegliai solo. L'ospedale e le infermiere non c'erano più. Ho inciso abbastanza, signore? Figlio, tu sei uno scheletro. Mangiavo senza mai saziarmi, non persi una portata. Quanto costano queste zuppe? Lo faremo fuori con odio. Io spesi il mio astio in ogni luogo, su ogni lavoro, su ogni faccia. Qualcuno mi diede desideri, ma desideravo solo un abbraccio. Molte ragazze mi abbracciarono, poi. Fui abbracciato da molti uomini. La mia collera è legittima? No. fallo un'altra volta. Ero bello e forte, conoscevo le parole di ogni canzone. Ti piaceva il mio cantare? No, le parole che pronunciavi erano sbagliate. Chi è colui verso il quale mi sto indirizzando, che prende nota di quanto sto confessando? Siete voi le insegnanti della mia anima? Noi insegniamo come riposare a cuori esausti. Oh, insegnanti, sono finite le mie lezioni. Non riesco più a farne altre. Loro risero e dissero: bene, figliolo. Sono le tue lezioni finite? Sono le tue lezioni finite. Questa era Teachers di Leonard Cohen. You make my life much brighter. You're always on my mind. You make my load much lighter. True love is hard to find. Sometimes I feel I have to get away. I change my mind when I look in your eyes, and when those clowns come in and try to darken my day, I'll always want you to stay. So through my lies and deception, yeah, I was losing my way. You gave my life some direction, and now I'm ready to say, I know there's bound to be some hard times ahead. I'd be a fool to believe, but if you'd go, I'd think of dying instead. I'll never want you to leave. You'd be back for more. Let's leave the past behind. True love is so hard to find. I'll always want you to stay. Siamo già attorno alla metà della seconda parte di Eclettica di quest'oggi. Già sono successe parecchie cose, fra cui musica, fra cui uno sprazzo cinematografico da Profondo Rosso e la lettura di altre parole di Leonard Cohen. Per quanto riguarda la musica, ci siamo ascoltati tre brani che vi vado a elencare. Prima Holy Fuck dal Canada con Lovely Allen, poi The Mountain Goats dagli Stati Uniti con Autoclave, poi Malcolm Middleton dalla Scozia con Stay. Tutto questo in Eclettica, che vi ricordo va in onda fra le 19 e le 20 tutti i giorni della settimana, quella lavorativa, per accompagnarvi a casa dopo la vostra intensa giornata, sia che sia stata di studio, di lavoro o di qualche altro impegno che richieda ora di rilassarvi. Eclettica vuole essere questo, vuole essere una sorta di isola, una sorta di spazio in cui si frena, si rallenta, ci si prende del tempo per se stessi. L1011 è il nome della formazione che sta per arrivare. Loro sono un duo, sono di Los Angeles, non c'è un album alle porte, ci stanno lavorando, però di tanto in tanto fanno uscire sotto forma di 12 pollici le tracce che sono pronte, come per esempio questa The Jumping Frenchman of Maine. nasconderti! È inutile! So chi sei ormai! Ho letto il tuo nome. Carlo. Da New York erano gli MGMT che abbiamo ascoltato con Time to Pretend, ed Eclettica che si chiude con un brano che risale a qualche mese fa un album del 2007 per Hack Patch intitolato Cats and Rats, ma andando a spulciare i nomi delle formazioni del South by Southwest per cercare di scoprire qualche nome nuovo, ho notato appunto questo nome, Yellow Fever. Sono andato a cercare degli approfondimenti, delle ulteriori notizie, e ho trovato la band di Austin nel Texas abbastanza interessante, soprattutto nel brano che sto per andarvi a presentare, Hellfire. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 18, volume numero 4, indice, Collections of Colonies of Bees, 13 Ghosts, The Pink Rays, The Bogs, Cloud Cult, Holy Fuck, The Mountain Goats, Malcolm Middleton, L1011, MGMT, Yellow Fever. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.